Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Replica. Quando penso a quello che ho vissuto io, alle cose che mi hanno dato, alle cose che mi hanno tolto, posso dire già che torna il conto mio. Posso dire che perciò alla vita devo molto. Ecco, avendo qui con me in questa puntata veramente speciale di Storielle un personaggio grandissimo che ha fatto la storia della musica italiana, stavo aspettando proprio questo momento di questo brano inedito di questo suo nuovo album, dove dice appunto: quando penso alle cose che mi hanno dato, alle cose che mi hanno tolto, posso dire che già torna il conto mio, posso dire che perciò alla vita devo molto. È vero, Ornella Vanoni, che devi molto alla vita? Ma certo che devo molto, devo moltissimo alla vita. Anche se il prezzo è stato caro, comunque devo molto lo stesso. Perché ti ha tolto delle cose, il successo toglie delle cose un il po', limita la libertà. Il successo toglie tantissime cose, sì è vero. Per tante. Esempio, se tu dovessi dire a tuo figlio magari cristiano, può darsi che meno tempo del dovuto. Beh, ecco, hai toccato proprio il tasto. E facendo la chiesa, io insomma sono stata una madre assente, molto assente, il papà non c'era, eravamo separati, insomma il bambino è cresciuto abbastanza da solo, i rapporti sono stati difficili a un certo punto quando è cresciuto, hai capito che il colpevole ero io. Beh, avere vicino una mamma così grande certamente è un po'... E invece adesso po'... per fortuna... Tutto avete recuperato. Molto, sì, sono molto felice di questo. Questo mi rende felice. Beh, quando si rende... matura, anche quando i figli maturano, possono capire. Del resto, insomma, non capita tutti i giorni. Poi bisogna anche che la mamma cambi. Sì, ma sei cambiata tu un po'. Sì. E in cosa di più, se tu dovessi... È vero che in una vita, no, tante cose, le esperienze... Sono molto, molto, per esempio, molto attenta alla mia famiglia, molto attenta a tutti i particolari. Molto più che a me. Se c'è un sento che hanno mal di testa, chiamo il dottore e mi dico subito che cosa devono fare. Insomma, si sentono amati, siamo una famiglia finalmente. Perché... mentre per anni non siamo stati una famiglia. Comunque, questa incredibile storia di Ornella Vanoni, che è naturalmente una delle più grandi rappresentanti della musica leggera italiana di tutti i tempi, dicevamo, siamo arrivati a questo ultimo album. Sentivamo prima il primo brano con Ramazzotti, era stata per te, no, questa canzone? Sì. Solo un volo. Solo un volo, l'ha scritta per me e per Mina. Però... ma Mina non l'ho non voluta. Allora Eros ha detto, Eros mi ha fatto un regalo, Mina, pazzesco. Però c'è anche Mina in questo album più di me, ci sì. Sono 11 brani, due inediti e l'altro inedito l'hai fatto proprio con Mina, no? Sì. Amiche mai. Amiche mai. Ma nella tua lunga storia, questa adesso un po', mi chiedi anche tu, è una domanda inevitabile, no, una domanda inevitabile, perché tutti vogliono sapere le due grandi signore della musica italiana. Sì, ci odiamo. Che rapporti hanno avuto? Guarda, ci odiamo, quando ci vediamo ci sputiamo addosso. Va bene. Non ci credo, Ornella, non ci credo. Anzi, in questo duetto poi riuscite benissimo e probabilmente è più il pubblico che vuole vedere questa cosa, no? Se lo avete fatto, evidentemente. Esattamente così, buoni, ma certo. Ma... ritornando allora un po' indietro, no? Tu sei nata a Milano. Sì. E tu hai scoperto in che modo che questa sarebbe stata la tua strada. In realtà qualcuno un giorno ti ha detto: tu hai una voce così particolare, così bella, che dovresti fare l'attrice. Sì, un'amica di mia madre, la signora Cannella. Quindi un po' grata a questa signora Cannella, Cannella sei? Allora io ho detto: come si fa? Mi sono andata al Piccolo, mi sono iscritta e mi hanno presa. Piccolo Teatro di Milano, dove hai fatto un grande incontro. Ho fatto il grande incontro con Strella, sì, che poi è diventato anche mio compagno, sì. Quindi un grande amore e una grande rivelazione, perché poi lui, diciamo che ti ha fatto un po' spiccare il volo, no? Tu eri giovanissima. Sì, ero giovane, avevo 20 anni. Mi ha fatto cantare una volta durante i Giacobini di Zardi, quando montavano le scenografie. Nel 1959, no? Sì, bravo. Prima di salire sul palco, lì ho cominciato a cantare, morta di terrore, e niente... Poi si è inventato le canzoni della Mala. Famose canzoni della Mala, no? Della Mala, beh, è stato un dei furfanti milanesi. È stato interessante, perché erano personaggi molto, molto interessanti. Cioè c'era dell'onore anche nella Mala. C'era sempre questo limite invalicabile. Per esempio c'erano questi accordi da galantuomini tra il capo dei ladri e il capo della polizia. No, adesso tutto questo tutto non c'è cambiato, più. Tutto è cambiato, anche queste cose. Anche nel male, il male è sempre anche il male peggio. È peggiorato, sì. Senti, e poi fra i vari incontri, ripercorrendo un po' velocemente così la tua storia, c'è stato quello con Gino Paoli, un altro grandissimo amore. Tu ti eri alternata un po' tra teatro e musica e poi forse con Gino hai capito che quella era veramente la tua strada. No, io volevo proprio cantare le canzoni d'amore. Non volevo più cantare canzoni Brecht, della le canzoni della madre. Sì, sì. Così ho conosciuto Gino e gli ho detto scusi lei. È così simpatico. Mi scriverebbe una canzone, forse. No, veramente ti ha accolta in questo modo, così un po' burbero. Gino accoglie molto spesso, così è un caso. E allora, quando sono tornata dall'appuntamento che avevo, lui stava suonando senza fine. E poi per fare le strofe, poi ci siamo innamorati, insomma. E poi è stato buffo perché noi per 3 mesi abbiamo camminato sempre. Io con i tacchi a spillo, che non mal di gamba, mal di piedi, camminavamo. E siccome quando io l'ho visto, ho detto chi è quello lì? Perché era vestito come me, di nero, così. Occhiali scuri. Mi hanno detto, è un gay che scrive delle canzoni. Ah, veramente? Ha detto... E mentre lui di là diceva, quella là chi è? Quella là è una cantante della Mala, porta sfiga, ed è lesbica. Allora noi camminavamo e non capivamo questa attrazione. Visto che lui è gay, è lesbica. Ma... Finché una sera io ci siamo guardati negli occhi e ho detto, ma tu sei che io no? E così è cominciato. Senti, al di là che non ci sia nulla di male, ovviamente essere gay e lesbica, perché... No, niente di male, ma però... Perché vi avevano attribuito, infatti, Combina poi la storia. Sì, non erano i vostri orientamenti. Come mai vi hanno presentati così? Forse per... Perché eravamo diversi. Liberi, cioè eravamo convenzionali. Infatti, tu Ornella Vanoni sei una differente, un anticonformista. Secondo te in cosa consiste soprattutto l'essere anticonformisti? Ma credo, non credere eccessivamente nelle formalità. Questa cosa ti è costata nella vita, essere un po' a modo tuo, senza troppe convenzioni? Ah, certo che mi è costata, per certa gente mi ha detestata, però... Io sono così e mi va bene di essere così, cioè potrei cambiare e se voglio cambio, perché se mi porti all'ambasciata io mi comporto benissimo, se mi porti a casa di amici hanno un prato io vado a fare la pipì nel prato, questo è molto è molto liberatorio questa cosa di fare la pipì nel prato. Ecco. Storielle, storiacce. Cari ascoltatrici e ascoltatori, sempre Roberta Giordano con voi, ma soprattutto qui con me e con voi la principessa della musica leggera italiana, perché ti ho sentita anche definire così Ornella Vanoni. Principessa? La principessa della del pisello. Non lo so, però della musica italiana leggera sicuramente, insomma, tu sei, come si può dire, un patrimonio dell'umanità, posso dirlo senza... Ah sì, come per UNESCO. Ma con Ornella Vanoni, che ha appena pubblicato Più di me, questo bellissimo album di duetti con... Ramazzotti, con Claudio Baglioni, quindi dei mostri della musica italiana, con Mina, dicevamo prima, ma anche con personaggi nuovi che stanno avendo successo, un grosso successo ultimamente, con Giusy Ferreri. Ma ci ritorniamo tra pochissimo, perché invece mi incuriosiva con Ornella. Stavamo facendo un discorso di donne e di uomini. Prima parlavamo della così mitizzata un po' competizione con Mina, che in realtà non c'è. Ma a questo proposito, Ornella, la tua esperienza sia professionale ma anche umana, con le donne che tipo di rapporto hai avuto? È vero questa storia appunto della competizione, della rivalità, oppure tu hai avuto anche del buono, insomma, dalle donne? Io ho avuto del cattivo, dei grandi tradimenti. Dalle donne? Sì, per eccesso di innamoramento. Ah, a sì? Volte succedono, ah, sì? Ai cantanti, questo... Cioè, nel senso che si avvicina una persona che ti sembra straordinaria, che lavora con te, e poi un bel giorno ti fa delle cattiverie, perché sì. Perché succede, allora bisogna stare attenti. Però ho avuto anche molto dalle mie amiche, e tuttora le mie amiche sono la mia vita, sono importantissime. E i tuoi grandi amori con gli uomini, citavamo prima Streller, che è stato un po', diciamo, all'inizio un pigmalione, perché tu eri giovanissima, sì, no, poi Gino, sì. Paoli, sì. Poi tuo marito, poi tuo figlio naturalmente come uomo, ma Bardotti, che è stato Sergio Bardotti, tuo primo, sì, grande, sì, produttore, sì, artistico, sì, sì, no? Sì, assolutamente. Con un sacco di successi. Beh, sì, ci siamo molto divertiti. Era un'epoca in cui la musica si faceva con calma, si andava fuori tutti insieme dentro la Forte dei Marmi a scrivere 2-3 mesi, poi si tornava, tempi. Bei tempi, sì. Si rideva, si piangeva, ci si innamorava, poi ci si ubriacava e si camminava, e poi ci si telefonava, poi ci si vedeva, insomma adesso qui ognuno a casa sua, ognuno col suo, con la sua tastiera, col suo, il suo studiolo. Io non ce l'ho perché non sono un musicista, che sono. Però insomma ci isola. Perché tu sei diventato più veloce, ma anche la macchina, l'industria della musica, no? Macina, macina, macina, con grossa velocità, con imperativi, con... Sì, ma secondo me l'errore proprio del consumismo è questo eccesso di produzione che non può più essere consumata. Infatti poi si assiste, poi no. Se io mangio 3 patate, la quinta vomito. E invece credo che sarà molto consumato questo tuo ultimo album, più di me, dicevamo, quindi con 2 inediti, quello con Ramazzotti che abbiamo sentito all'inizio, bellissimo, Solo un volo, e poi Amiche mai con Mina. Dicevo, quindi, mostri sacri come Claudio Baglioni, Lucio Dalla, ma anche una Giusy Ferreri, che è appena uscita, diciamo, come fenomeno musicale. Beh, no? Devo dire, io non avevo seguito X Factor, quindi non sapevo. Questo reality da cui era emerso. Televisione. Poi avevo un po' da fare in quel periodo. Rudy Zerbi mi ha detto: ci terrei, trovo che sia giusto dare una chance a una ragazza giovane, che in fondo può essere il sogno di tante ragazze che invece di diventare delle belline vogliono cantare. Vogliono diventare una grande cantante, sul modello magari di Ornella, anche se so che lei ha fatto un'aspettativa, no, col supermercato. Sì, con il grosso supermercato. Non si sa mai nella vita cosa può succedere. Mi sembra molto saggio e intelligente. Realista. E poi invece hai detto che avresti voluto farne altri di duetti, perché sono tanti comunque, sì, i colleghi, sì, che ami. Che... Sì, sì. Però Zucchero mi manca tantissimo, mi manca Elisa, mi manca Gino. Gino Paoli, con cui hai fatto però un sacco di cose. Sì, no? Ma Gino, se non c'è, poi manca qualcosa. Senti, ma siete sempre comunque, vi sentite in modo assiduo con Gino Paoli? Cioè, dunque, sentirsi con Paoli è molto difficile perché non risponde un par nel telefono. È rimasto proprio così burbero, odia insomma. Odia il telefono, no, vabbè. Odia il telefono, non risponde al telefono, non chiama. Una volta, anni fa, torno a casa e la cameriera mi dice: ha chiamato Paoli. Chi? Ha chiamato Gino Paoli. Sembra quasi incredibile che avesse chiamato. Chiamo e mi risponde Paola, la moglie, perché figura se non risponde al telefono. E dico: cosa c'è? Come mai? E dice: Gino ha detto, sento che sta male. Oh. E dico: attualmente benissimo. Quindi un'intuizione. Cioè pensava che tu stessi sì, male. Sentiva questa cosa. Allora lui sentiva che non stavo bene, allora lui mi chiamava. Capito? E quindi aveva come una specie di ansia nei tuoi confronti. Che invece stavo bene. E poi è continuato a star bene, non è successo. Quindi oh no, non si è avverata sì, questa sua... Parlare al telefono con Gino è veramente un'impresa titanica. Poi comunque tanti altri incontri, nonostante Gino faccia sempre parlare della vita. Mario Lavezzi, dopo il lungo sodalizio con Bardotti, è arrivato Mario. È arrivato Mario, che è l'opposto, che è l'opposto di Bardotti. In che senso? Bardotti era un uomo di profonda cultura, di grande ricerca, di un'altra epoca. Insomma, questo è certo, di un'altra epoca, la sua bella importanza. Lavezzi lavora come un matto, corre come un pazzo, con 2 telefoni, 3 computer, cioè, voglio dire, questo non c'era allora, quindi quando parla certo non si capisce un tubo, però è bravo, e poi è un mio amico, e poi è bravo, e poi è simpatico, poi insomma. Senti, Ornella, ma a proposito del nuovo disco, tu, Russi, non lo so, devo chiedere a quale russo? Ecco, la mia assistente dice che è russicchio, ma russo forte o russo così così? Bassino? Basso, medio, non... moderato. Oh mio Dio. No, come adesso fai... un respiro a volte affannato, ecco. Sai perché? Perché Lucio Dalla, no, ecco, ha scritto a proposito del duetto che ha fatto con te, quindi ha fatto il commento su Senza Fine. Dice: per me Ornella è musica, quando parla, quando canta e anche quando dorme. Non so se russa, ma se lo fa sicuramente russa soul. Ecco, è carina questa. Russa soul, Ornella. Sì, dice la tua assistente. È che... spiritoso lui, sì. Tu però sei stata in certi momenti, Ornella Vanoni, anche cantautrice, autrice di te stessa, sì, no? Sì, quando c'era Vivo Bardotti scrivevo molto. Poi ho scritto molto su Scheherazade, sì, che invece ho fatto con Mario. Sì. E poi anche Uomini, se non sbaglio. Uomini, ma Uomini, la stessa canzone Uomini, sì, sì, sì, che sì, è meravigliosa. Sì, sì. Io trovo un ritratto degli uomini incredibile quando dice che sono sempre in guerra, alla ricerca sempre un po' del nemico dello scontro, e poi si ingigantiscono e si attaccano sui muri. Questa autoreferenzialità, no? Questo... sì. Sì, sì, è veramente. Perché non hai continuato su questa? Perché secondo loro, secondo la Sony, loro la Sony, i discografici. Non era abbastanza famosa. Ma io ti ho trovata eccezionale comunque quando sei stata autrice di te stessa. Sì, veramente. Non capiscono niente. Diciamolo proprio così velocissimamente. Dove vivresti tu se dovessi scegliere un posto? Ma io vivrei al mare. Perché a me piace svegliarmi e vedere il mare. Perché non l'hai fatto? Perché ho una famiglia. Sempre per la cosa che dicevamo all'inizio. Sì, no, da sola. Perché? No, con tutta la famiglia, però dici il lavoro è a Milano, le cose sono qui, quindi se uno si allontana verso il mare... La famiglia è qui, mare, i bambini diventa... vanno a scuola qui, i bambini, non i miei, quelli mio quelli figlio. Tuo... Che nonna sei, Ornella? Sono una nonna molto amata. Sono una nonna con due nipoti abbastanza straordinari. Lui ha 13 anni, ha dimostrato 17, sì. E come bacia lui, non bacia nessuno. E poi c'è sempre le ragazze più grandi, perché lui è altissimo. Mi ha detto mio figlio che gli ha prestato una giacca di velluto perché voleva una sera uscire così. Quando è andato a rimettersela ha detto, ma cos'è, non è mica mia questa. Perché è un ragazzone. Ma è un immenso, capisci? Beh, quella nonna che insomma, no, tu non hai, no, non c'entra niente. Molto di più, molto sei più. Un gigante. E biondo, è simpatico, molto simpatico. E lei è molto bellina, molto carina, con questa vocina. E niente, che vuol fare la cantante. Ecco, questo ti volevo chiedere, vogliono seguire un po' la tua strada? Perché lui è una nonna così. Lui no. Lei forse vorrebbe fare. Quante volte nella tua vita, Ornella Ononi, ti è capitato di dire... di fronte a certe cose, a certe delusioni, a certe difficoltà, domani è un altro giorno? È un po' il tuo spirito questo di dire domani è un altro giorno, si vedrà? O... No, io dico già oggi, si vedrà, magari domani stasera. Si vedrà. Chi lo sa, sei fatalista tu nella vita? No. No? Non sono fatalista, sono molto realista. Non mi piace non vedere le cose, non volerle vedere, le voglio vedere fino in fondo, fino allo sfinimento. D'altra parte sono nato sul segno della Vergine e quindi... Allora, io non so, Ornella, se in fondo capita pure a te che ti manchi ancora qualcosa. Ah, dicevo, ma cosa fa, cosa dice? Ha copiato mi sembra come questo, mi sembra di averla già sentita questa cosa qui nella prima traccia di Più di me con Solo un volo con Ramazzotti. Ma forse quel qualcosa che dice Eros che è rimasto là è forse quell'amore che non hai vissuto fino in fondo e che era quello giusto secondo te. E a te? Credo che sia credo che sia quello anche, sì, per Eros. E adesso questa che tu vedi qua, cioè un po' sgarruppata, sì. Questa qui è la lampada magica con dentro il genietto che aspetta. Sì, e sì, proprio sì. Per quello ti dicevo, se c'è qualcosa ancora che ti manca, a parte magari gli amori per tutti un po' non vissuti fino in fondo, quello che avevi cercato, tu Ornella Vanoni che cosa chiederesti ancora? Hai detto che la vita ti ha dato molto, ma vuoi chiedere ancora al genietto una cosa? Allora, una sola? Poi quelle che vuoi. Una magari la più importante, però se c'è anche un'altra cosa. La più importante è che mio figlio e i miei nipoti siano felici. È bello questo come desiderio, no? Quindi la felicità, quando loro sono felici, io trovo la forza di fare tutto. Se sono infelici in camera non dico niente, però sto malissimo. E comunque sia, un altro cielo c'è sempre. C'è sempre un altro cielo, difatti c'è. Grazie Ornella Vanoni. Grazie. Ciao. Amor.